Eccoci qua, nuova puntata di Passaggio a Nord-Ovest, la rubrica di Radio Wombat parla appunto di quello che accade nel quadrante Nord-Ovest, la città, ma più in generale di quello che accade in città. E in città accadrà primo maggio anticapitalista, una manifestazione con concentramento e partenza alle 10 in piazza Beccaria, organizzata da tutta una serie di sigle di organizzazione sindacalismo di base e non solo. E quindi per sapere un po' di più di quello del perché e di quello che di come sarà il corteo di questo primo maggio, siamo qui con Alessandro del Covas Ataf, una presenza abbastanza continua, ecco, a questi microfoni. E a lui gli chiediamo prima di tutto, in senso generale, ecco il perché questa manifestazione il primo maggio, dopo diverso tempo, insomma, no? Che non veniva organizzata in questo senso qui. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. E allora, giustamente come dicevi, il primo maggio è questa manifestazione. Noi crediamo, insomma, che il primo maggio debba essere riscoperto. Purtroppo il primo maggio è diventata, dagli ultimi anni, da troppi anni ormai, è diventata solo una festa, e la festa quasi della musica, no? Perché si parla altro del concertone che c'è a Roma, i sindacati confederali CGL, Cisdeville che sfilano, i cantanti più famosi che sono sui palchi, e questo è quello che si avviene. E si va a perdere quello che è il messaggio principale, che è la lotta al lavoro. Cioè, il primo maggio è la festa, sì, ma la festa della lavoratori e una festa di lavoro. Una festa in questo momento non può essere più considerata una festa, ma deve essere per noi una giornata, a questo punto, di rivendicazione e una giornata di lotte. Questo è quello che deve, il messaggio si vuole lanciare con questo corteo. È un corteo che ormai abbiamo riproposto anche l'anno scorso, due anni fa, che cerchiamo anche quest'anno di rilanciare, e che per fortuna sta prendendo sempre più corpo, perché vediamo che a quanto a questo hanno dato l'adesione anche tanti lavoratori di realtà in lotta, di fabbriche, eccetera eccetera. Quindi si sta spingendo anche oltre a quello che sono le realtà di sindacalismo di base. E quindi però è importante, secondo noi, in questo momento, soprattutto quest'anno, essere in piazza sul primo maggio, perché non ci scordiamo che a questo punto stiamo passando da un governo giallo-verde, che io reputo un governo pericolosissimo, uno dei governi più di destra che si sono svolti negli ultimi anni, che purtroppo è stato offuscato da questa aurea che è stata messa dai 5 Stelle, che ha all'interno dei posti di lavoro, guardate, purtroppo ha preso campo, e cioè questo nuovo Movimento 5 Stelle sembrava fossero i salvatori della patria, e non hanno fatto altro che poi lanciare quello che è la realtà di questo governo, un governo fascista. Cioè, questo è il punto principale. Hanno dato un alone, hanno lanciato Lega e Salvini nel massimo dello splendore, e vediamo adesso che sono i sondaggi nella popolazione, sembrano siano loro e questo. E quindi eccoci, troviamo a difendere, oltre che il lavoro di per sé stesso, quindi la dignità del lavoro, la dignità di quello che è la sicurezza sul posto di lavoro, ma anche a dover combattersi contro il precariato, perché questa è una realtà di fatto, non è stato fatto niente per quello che riguarda sui precario, e soprattutto anche quelle sono state le ultime direttive di questo governo. Leggete per tutti il decreto Salvini. Teresa Salvini, che ha visto sì vedere un attacco contro immigranti, contro immigrazione, però attenzione, il decreto Salvini c'ha anche tante, tante sfaccettature che va a colpire, diciamo, il famoso italiano, me lo potrebbe definire il Salvini, no? Perché questo decreto va a colpire a chi protesta, va a colpire sui blocchi stradali, e capite bene, in manifestazioni, può essere la logistica, in qualsiasi momento di protesta, di una vertenza all'interno di una fabbrica, all'interno di un posto di lavoro, dove si arriva a fare una manifestazione, dove si arriva a qualcosa, un decreto che ti blocca il poter fare una manifestazione in piazza, o che ti blocca di poter fare un blocco stradale, per l'appunto diventa una cosa piuttosto grave. Questo, diciamo, è una parte anche di questo che si può lanciare su questo discorso di questo corteo. È logico poi... su questo si apre un fronte grosso, che è proprio la battaglia poi tra, all'interno, tra i poveri, diciamo, tra la classe, dagli ultimi ai penultimi, che stanno, cioè, che sempre questo governo sta facendo. Ed ecco, il mondo di lavoro purtroppo si vede. Quando dicevo che all'interno dei posti di lavoro non si riesce purtroppo a far capire a tanti lavoratori che il problema non sono il migrante che viene, oppure che ti viene lì, che ti può avere, ma il problema è il padrone, e quindi questo diventa una cosa principale. Io credo che il nostro compito, messindacalismo di base, sia proprio quello di riuscire a aprire gli occhi e far capire ai lavoratori quello che sta succedendo realmente in questo paese e chi sono i reali pericoli di questo paese. Ecco, proprio rispetto a quello che stai dicendo, no? Rispetto proprio alle misure governative, in particolare su Jobs Act e diciamo il reddito di cittadinanza, che sembrava, poi in realtà non lo è e non lo sarà, sembrava che fossero, se non altro, dei palliativi, diciamo, rispetto all'immiserimento, insomma, dei lavoratori e comunque disoccupati. Ecco, cosa ci può dire rispetto a questo? Il Jobs Act è rimasto. L'unica normativa è stata fatta è quella che prevedeva che all'interno di quando vengono fatti i contratti a termine fosse specificato anche il motivo per cui era fatto il contratto a termine, il subentro, cioè cosa è prima non era specificato, è stato messo soltanto questa norma MIUB, ma poi è rimasto talmente uguale. Io sul reddito di cittadinanza sono molto critico, una cosa negativa, perché cioè io credo che noi non si debba richiedere un reddito, noi si chiedere il lavoro. Secondo me c'è il lavoro in Italia, si può trovare il lavoro. Cioè, questo, il reddito cittadinanza, non è altro che un lavoro sottopagato, perché bene o male ti devi rivolgere a determinate, cioè ti danno questo reddito, però sei vincolato a determinate situazioni, un'agenzia che ti trova da lavorare, non ti puoi rifiutare, ti trova da lavorare nei primi 100 chilometri, oltre 250 chilometri, hai il terzo tentativo in tutta Italia, cioè ha un lavoro che è sottosfruttato. Quindi cioè, io credo che questo sia stato, cioè, il reddito di cittadinanza, cioè, certamente chi dice ma per ora non c'era niente, meglio che niente, è questo. Però io penso che se si comincia sempre su questa logica, meglio che questo è nulla, è stata la logica che ci ha portato ai ribasso di tutti i diritti dei lavoratori. Questo è chiaro. Cioè, noi si vuole un reddito, cioè il reddito di cittadinanza, il reddito io lo vedevo come se fosse un'opportunità, certo, un'opportunità per i giovani, un'opportunità per qualcosa, perché dice io per un anno, due anni ti do un reddito, te hai la possibilità di formarti, hai la possibilità di fare esperienze tue, cioè hai la possibilità di anche continuare a studiare, perché tanti ragazzi oggigiorno devono continuare a studiare con i costi dell'università e sono costretti magari ad andare a lavorare a nero, a fare sottolavoro sottopagati, a fare camerieri o cose di questo genere. Cioè, con un reddito molto in mente questa cosa qui non succede. Cioè, invece questo è solo esclusivamente quello che si è cercato, io la vedo solo esclusivamente come un lavoro sottopagato. Cioè, io ti trovo, ti do questo reddito, però sei ricattato da dire che te ti trovo questo lavoro, c'hai un tutor, che anche questo i tutor, come vengono chiamati, che ti segue e ti trova il lavoro. Se te questo lavoro lo accetti, bene, e se no, se non lo accetti, io il reddito non te do più. Ma lavoro è accettato e poi c'è queste distanze da accettare. Quindi io credo che questa sia stata un'altra nuova Cioè, è uno spot che è stato avanti e portato avanti, però che non ha risolto il problema. Anzi, si è andato, secondo me, anche ancora di più a fare il precariato su queste, quello che sarà, perché bene o male chi va a sfruttare poi questi lavoratori sono sempre gli stessi. Il padrone a questo punto fa diventa all'ufficio di allontanamento, se lo prende la scusa del reddito di cittadinanza, paga molte meno tasse e si trova questo lavoratore che è costretto a accettare. Anche a subire quello, magari possono essere imposizioni poi, perché poi se rifiuta dopo il lavoro e si trova disoccupato come prima, quindi è un ricatto vero e proprio. Ritornando al corte, ecco, quali sono stati i passaggi, come si è evoluta la situazione dal punto di vista organizzativo, assemblee, ecco, ci puoi spiegare un po'? Sì, le particolarità magari, perché allora, poi il corteo è comunque un punto di passaggio, ma prima c'è sempre insomma qualcosa. Sì, no, come sindacati di base, come COBAS, CUB, USI e COBAS della Sanità, abbiamo cercato di allargare il fronte a tutte le realtà sindacali di base, ma non solo, ma è stato chiesto anche alle varie realtà della CGIL di poter partecipare. No, e non sono venute alla riunione, però credo che i compagni del KN alla fine si presentino. Insomma, ci sono delle realtà delle fabbriche in cui hanno dato, nonostante della Fiomme, che hanno dato l'adesione in cui parteciperanno al corteo. Si è cercato di allargare oltre a al sindacalismo, diciamo anche ai lavoratori, a tutte quelle che sono le varie associazioni e quelle sono i movimenti in questo momento che sono sul territorio, il movimento ambientale, leggo in aeroporto, no, inceneritore, cioè, l'Assemblea della Piana, il Notun e TAV, hanno non una di meno, quindi è stato allargato a questo, c'è stata le varie assemblee in cui è stato deciso la partecipazione. Cioè, logicamente il primo maggio, essendo diciamo una festa più riferita ai lavori, è stata lanciata, il lancio è stato fatto dall'organizzazione sindacale di base, però a queste hanno aderito tutte e molto convinte di partecipare, perché ti ripeto, come c'è scritto anche nel volantino di lancio, non si parla solo di lavoro, ma si parla anche della sicurezza sui posti di lavoro, ma si parla anche del problema della casa, degli sgomberi, si parla di Reto Salvini, come si è detto, ma si parla anche dell'ultima ordinanza, ultima ordinanza del prefetto di Firenze in cui le vieta le zone rosse, insomma, cioè, quindi costituisce le zone rosse, quindi cioè, si è già visto, e guarda caso, il primo caso saputo è stata una lavoratrice. Una lavoratrice, quindi cioè, capito? Cioè, si parla benissimo del contro il diritto Pillon, insomma, e quindi cioè, secondo noi a questo punto il lavoro è diciamo la parte principale, ma accanto al lavoro a questo punto ci sono un sacco di temi che fanno parte di una lotta che va fatto contro questo tipo di governo, questo tipo di società che vede il lavoro, perché questa è la giornata del lavoro, ma non ci scordiamo che qualche giorno fa c'è stata la giornata della resistenza, tranquillamente il 25 aprile è stata una giornata importante, una giornata che si collega, perché se si pensa anche cioè l'antifascismo, la resistenza sui posti di lavoro, la resistenza contro la repressione, ha tutto un filo che segue, non a caso il 25 aprile nacque da uno sciopero generale, per dire, quindi ecco che va seguito, cioè una fase, secondo me un ciclo che deve continuare a prendere vita e continuare non solo il primo maggio, ma deve continuare anche dopo. E prima di continuare, appunto, ci sentiamo un pezzo dei Clash. No! We'll be right back. Alessandro, ci sono dei punti principali di questo corteo, di questo primo maggio, ma chiaramente ci sono anche le vertenze, le lotte e le iniziative sul territorio. Ecco, innanzitutto, che sta succedendo all'ATAF, come Cobas, cosa ci puoi dire? Ma senti, la situazione a questo punto all'altro è una situazione di stallo, ma molto pericolosa, eccetera, perché siamo in una fase in cui praticamente non sappiamo se chi sarà il futuro padrone, come si suol dire. Nello stesso tempo c'è proprio nata una situazione di un po' più repressione da parte dell'azienda, da parte dei proprietari Bus Italia. Stanno arrivando anche delle minacce di quasi lettere di licenziamento a dipendenti per incidenti o qualcosa, quindi per far vedere che sono ancora loro che comandano, visto se non si sa se saranno loro oppure no prossimamente. E quindi questo è un po' il clima che si sta respirando. Hanno tentato di fare un accordo con i vari confederali, ma è stato respinto dai lavoratori. Quello è un accordo che l'azienda voleva particolarmente per far vedere che il clima all'interno dell'azienda, anche i lavoratori erano dalla parte, diciamo, di questi loro, di parte di Bus Italia, degli attuali padroni, e che quindi i lavoratori erano felici e contenti di questa situazione. Questo li ha un po', secondo me, fatto saltare i piani, ed ecco che cominciano, diciamo, una rappresaglia nei confronti di chi a questo accordo l'ha cercato, ha espresso il contrario, e praticamente stava bocciato poi dai lavoratori, perché stava bocciato il 70% dei lavoratori su un referendum. Quindi questa, diciamo, è un po' la situazione. Poi la situazione ora generale di traffico, cioè la situazione continua a essere sempre in questa maniera. Io credo che ancora tutt'oggi si stia guardando un servizio, continua a dire, ma il servizio non sta diventando più un servizio pubblico, un servizio d'utilità pubblica. A questo punto è un servizio veramente di far cassa, praticamente. Cioè, il trasporto si è trasformato da un trasporto pubblico di utilità da un trasporto per fare business. Questo è diciamo, la cosa principale. È partita la nuova tranvia. Ma anche questi, gli effetti, sinceramente, su queste non si sta vedendo. Come nasce qualcosa, rinato il comitato, vorrebbero addirittura riportare il 22, vorrebbero riportare la linea 22. Quindi ci si accorge che quello è che sono prima le parole, le promesse fatte, di una mobilità sostenibile, una mobilità diversa, poi alla fine si scontra con la realtà dei fatti, e non è questa, perché per fare una realtà, per fare una mobilità sostenibile bisogna continuare, cioè non bisogna tagliare chilometri, cioè fin quando si continuerà a fare una tranvia e va a sostituire i chilometri fatti sulla gomma, non è più, cioè, si farà sempre una cosa monca per quanto riguarda l'utenza e il trasporto. Cioè, fin quando non si continuerà a dire la tranvia serve, però c'è anche bisogno delle linee adduttive che portano alla tranvia, perché le periferie non possono essere abbandonate di per sé stesso. L'abbiamo già visto la linea 1 quando è partita da Scandicci e è arrivata a Firenze, l'abbiamo visto quando ha continuato poi dalla stazione a arrivare fino a Careggi, la difficoltà che hanno trovato le persone che devono andare a Careggi e devono essere servite dall'ospedale. Lo stiamo vedendo, quello sta succedendo adesso sulla parte di Novoli. Fin quando le persone e l'utenza si trova sul tratto principale è una meraviglia, certo, è veloce, arrivi e non rimani bloccato nel traffico, ma tutto quello che sono le linee, le strade periferiche alla linea tranviaria, queste subiscono un accavamento di traffico, perché il traffico non è diminuito. Il traffico privato non è diminuito, e nello stesso tempo non vengono servite per bene. Cobas, Sanità, Università e Ricerca fanno parte di Cobas, sono sempre lì alla sera, sono i compagni di Careggi che sono all'interno nostro e fanno parte di nostro. Anche lì, loro anche lì hanno delle varie vertenze all'interno e su queste, come vorremmo vedere le vertenze ultimamente, ci saranno sulle poste, sarà uno sciopero nazionale anche lì come sindacalismo di base è unito, c'è lo sciopero della scuola a metà maggio, quindi le vertenze su queste cose ce n'è abbastanza su queste cose qui, su quello in cui c'è da andare avanti, insomma. Intanto un appuntamento che non è il primo maggio, il 4 maggio, sabato, è un pranzo sociale di quartiere al CSA Nest Emerson, c'è anche il numero per la prenotazione 347-592. Ma un altro appuntamento è, per quanto riguarda questo quartiere del primo maggio, è il giorno precedente, il 30 aprile, in piazza De Sciombi, aspettando il primo maggio. Ecco, anche questo, diciamo, traspare la volontà, diciamo, di non focalizzarsi solo nella giornata, non soltanto sui temi prettamente o soltanto lavorativi, ma diciamo, appunto un passaggio inclusivo, ecco, sì, da questo sì, punto di sì, vista. Diciamo è una parte anche delle famose zone rosse, no? Quindi una dimostrazione che insomma le piazze con presidi, con iniziative devono essere secondo noi prese, chieste e se negate conquistate, non c'è nulla da fare, perché altrimenti qui si rischia veramente di arrivare a quella famosa, già lo siamo parecchio, a quella città vetrina che l'attuale sindaco e molto in mente anche il futuro sindaco Nardella cercherà di voler fare, nonostante si presenti il 25 aprile in piazza cantando Bella Ciao. E a proposito di città vetrina, un corteo che attraversa la città vetrina, parte da piazza Beccaria alle 10 e finisce in piazza San Firenze. Percorso? Il percorso sarà via per arrivare praticamente a piazza da piazza Beccaria, corso, cioè tutto a diritto, arrivando poi fino a Pietrapiana dove c'è le poste e poi girando a sinistra via Verdi, Santa Croce, Borgo dei Greci, arrivare in piazza San Firenze, che è diciamo anche vicino a dietro il comune di Firenze, l'unica posto dove ci fanno arrivare. Poi lì abbiamo anche il palco naturale, sono le scalinate dell'ex tribunale, dove finiranno con degli interventi da parte dei lavoratori presenti in piazza, e non solo lavoratori, anche comitati o chi vorrà intervenire per portare il proprio contributo alla giornata. Ecco, appunto, e quindi è stato scelto di fare un corteo in centro invece magari in periferia, è stata una scelta proprio rispetto alla città vetrina, il tentativo di blindarla e militarizzarla ancora di più. Sì, anche perché consideriamo che purtroppo ci stiamo scordando che tanti lavoratori la domenica lavorano. Il giorno i festivi lavorano, cioè ora non credo, mi sembra di aver capito che sia Esselunga, le Coop, diciamo le due più grandi distribuzioni, dovrebbero essere chiuse il primo maggio, chiuse, però tante altre diciamo distribuzioni sono aperte, in centro i negozi sono aperti. Quindi cioè, i lavoratori sono costretti a lavorare per le festività, per il primo maggio, per la loro festa, sono costretti a lavorare. Quindi cioè, questo secondo noi è il lavoratore festivo, la domenica non si lavora, cioè, o perlomeno si lavora quelle sono le cose vitali per la comunità, ma non certo per andare a fare shopping. La domenica si sta, come dovrebbe stare a casa tutti, ecco, non per andare a fare lo shopping. E quindi questo è stato un passaggio anche del centro, perché quando passeremo insomma da vari negozi, da quello che fa capire che i lavoratori devono essere a casa. La domenica non si lavora, non c'è niente da fare. I giorni festivi non bisogna la lavorare. Festa è festa. La festa è festa per tutti. E c'è qui Alessandro. le nostre sedie via alla, alla redazione di Radio Uomo, non è che siano comodissime, però mi vedo un po', ecco, probabilmente è frutto di... È frutto del mio lavoro, è frutto degli anni di lavoro su un autobus, questa è la realtà dei fatti, purtroppo, è quello. Cosa ci vuol dire da questo punto di vista? La situazione non è che sia particolarmente migliorata. Ah no, quello, le condizioni di lavoro sono sempre, sono sempre le stesse, sono sempre pessime, purtroppo ormai questo è il fatto, perché ti dicevo, cioè, sta settore 20 su un autobus e comincia a essere tanta roba, e non, non una, una città caotica come son tutte, e poi ti ritorno a dire, un conto è starci settore, starci tranquillo, un conto starci settore sapendo di dover rispettare, meno male, degli orari che è impossibile rispettare, e che quindi, cioè, cerchi di fare il tuo proprio per il rispetto delle persone che porti, però questa è la realtà. Ecco, siamo a fine trasmissione, siamo a fine di questa trasmissione di Passaggio a Nord-Ovest, che vi ricordiamo appunto sta andando in onda il lunedì alle 13, ma la potete anche riascoltare in replica nei giorni successivi, e più in generale tutte le trasmissioni di Radio Wombat hanno delle repliche, per vedere sia per sapere sia quando ci sono le dirette e le repliche potete andare alla pagina della trasmissione del palinsesto della radio su wombat.noblogs.org. Ricordiamo anche che tutte le trasmissioni, quindi anche Passaggio a Nord-Ovest, le potete riascoltare tramite podcast, e in questo caso è la pagina podcast sempre allo stesso sito, oltre che ascoltarla in streaming Radio Wombat la potete ascoltare sull'1359 di AM con onde corte. E appunto, e quindi gli chiediamo a Alessandro, insomma, primo maggio ci siamo arrivati con costruito, ecco, manifestazione, ma poi chiaramente la manifestazione allude o comunque vuole essere un punto di passaggio, ecco, quindi... cosa c'è in programma dopo? Ecco, come si pensa dalla manifestazione poi sviluppare eventualmente ulteriori passaggi, diciamo, da un punto di vista delle vertenze, delle lotte in campo lavorativo? Ma credo che la cosa principale sia quella, già essere riusciti durante la nell'organizzazione di questa manifestazione, essere riusciti a portare varie realtà, varie vertenze, ognuno con, con il proprio slogan, con la propria, diciamo, con le proprie specificità, eccetera. Averle portate insieme, questo è un segnale, perché principale deve essere quello, e praticamente le vertenze alla fine devono essere, cioè devono essere unite. Non possono rimanere vertenze a se stesse. Cioè, fin quando non riusciremo a avere una comunità di intenti in cui si dice la vertenza degli autoferrotranvieri, per dire, la vertenza dei metalmeccanici, la vertenza dei postini, la vertenza degli scolastici, non riguarda solo i settori ma riguarda tutto, ecco che secondo noi a quel punto lì riusciremo veramente a incidere su un qualcosa. Cioè la solidarietà delle lotte e l'unione delle lotte deve essere la cosa principale, è forse una delle poche cose che ci potrà permettere di poter far abbassare la testa a questo governo, a questi padroni che stanno prendendo sempre più campo. Ringraziamo Alessandro. No, grazie a voi, vi aspetto il primo chi è in zona maggio. Firenze. Sì, anche perché il primo maggio c'è la festa della radio, chiaramente non nell'orario del corteo, non la mattina, il corteo ricordiamo in parte, appuntamento alle 10 in piazza Beccaria, la festa della radio invece è dalle 17 alla polveriera Spazio Comune, e appunto alle 17 ci sarà materiale informativo, banchini performance, DJ set, musica, mangiare, e chiaramente oltre a essere un benefit, perché di quello ne abbiamo sempre bisogno come radio, è anche un motivo per fare conoscere la radio, le sue rubriche e tutto quello che ci gira intorno. E chiaramente ci sarà anche una diretta sia la mattina ma anche nel pomeriggio, mentre siamo lì, in cui verrà riproposto comunque le interviste, le considerazioni che abbiamo, registreremo al, durante il corteo. Ciao ciao. Ciao a tutti.